Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Saremo insieme fino a mezzogiorno per occuparci come sempre della nostra salute e del nostro benessere. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Se faccio sport, integro o non integro? Questo è il problema. Lo stress ossidativo spiegato dal Nobel Luc Montagnier. Mamme in attesa, privilegia la qualità alla quantità. Ictus, un test, predice la possibilità di recupero motorio. Sportivi e integratori, ci rivolgiamo quindi a chi pratica attività fisica. C'è chi si rivolge all'integratore con l'idea di sopportare meglio la fatica o di rendere di più e ottenere maggiori prestazioni. C'è chi lo fa per compensare eventuali perdite o per ricevere una sorta di protezione nei confronti dell'invecchiamento. Ma c'è anche chi di integratori ne ha solo sentito parlare e vorrebbe saperne di più. La parola ai nostri esperti. In studio con me, come ogni venerdì, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Ribuongiorno, ribenvenuto. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Ma ci ha raggiunto ed è in linea con noi il professor Michelangelo Giampietro, medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Professore, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Professore, inizio subito da lei, perché dietro al termine integratore si nasconde in realtà una varietà complessa di prodotti molto diversi da loro. Allora, iniziamo un po' a definire che cosa sono gli integratori. Allora, gli integratori intanto hanno il nome, diciamo, più comune con cui vengono indicati quelli che in realtà come normativa vengono definiti come prodotti dietetici, sì. Intendendo per questo i prodotti dietetici c'è un decreto legislativo che rispecchia le norme della Comunità Europea, i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, ad esempio le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo fisiologico. In particolare, ma non in via esclusiva, si parla di aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, estratti di origine vegetale, sia mono che pluricomposti in forme prelosate. Per la norma italiana, per quella europea, i termini integratore, complemento alimentare, supplemento alimentare sono sinonimi, sono identici. Sì. E quindi è una gamma di prodotti molto varia che può essere presentata in forme di capsule, compresse, pillole, gomme da masticare, polveri, liquidi, fiale, flacone, gocce, cioè c'è di tutto. Chi più ne ha più ne metta. Esattamente. Ma professore, partendo proprio da questa definizione, chi è autorizzato a prescriverli e a venderli? Allora, prescriverli dipende dal tipo di prodotti dietetici ed integratori, perché in questa categoria non rientrano solo quelli per gli sportivi, ma ad esempio ci sono i prodotti per lattanti, per lo svezzamento, per la prima infanzia, quelli per il controllo del peso, quelli per pazienti con patologie come il diabete, la celiachia, come l'ipertensione. È chiaro che se ci riferiamo a diabetici, celiaci, in questo caso non può che essere un medico. A prescrivere dopo una precisa diagnosi questi prodotti. Se ci riferiamo invece ad esempio agli sportivi, beh, in questo caso è chiaro che la prescrizione non è appannaggio esclusivo del medico, ma come avviene normalmente possono essere gli allenatori, i preparatori atletici, altre figure che sono, diciamo, inserite nel mondo dello sport a prescriverli, però con una specificità, perché sì, per alcuni di questi prodotti, in particolare per quelli che forniscono proteine, aminoacidi, vuoi creatina o altri prodotti simili, allora è solo in caso di uso prolungato, e per le linee guida italiane su questi prodotti l'uso prolungato è quando vanno oltre le 6-8 settimane, sì, di utilizzo, allora è espressamente richiesto e deve essere riportata sulle etichette di questi prodotti il parere del medico per una prescrizione. Ovviamente tutti possono immaginare quanto raro sia il ricorso, infatti, al parere del medico in chi frequenta palestre, in chi fa sport non seguito da persone competenti. C'è un po' il passaparola, lo dice l'amico, l'ho provato io. Molto spesso adesso anche l'allenatore, il preparatore atletico che vende lui stesso questi prodotti, perché la vendita di questi prodotti non è soggetta a norme particolari, possono essere venduti nei supermercati, nei negozi, nelle farmacie, ma anche in quei negozi specializzati proprio per integratore o per articoli sportivi, l'abbigliamento, articoli tecnici, ma possono anche essere venduti porta a porta, sì. Oppure palestra o spogliatoio a spogliatoio. Ah, dottor Confaglionieri, lei che è un amico abituale del venerdì, il tema di oggi io credo interesserà una vasta fetta dei nostri ascoltatori, sportivi e non. Proviamo a coinvolgerli con una domanda o con più di una domanda. Sì, innanzitutto mi sembra preziosa la definizione che ha dato il professor Giampietro per fare chiarezza su un tema relativamente al quale la confusione è uno dei grandi problemi. Io quello che vorrei capire dai nostri ascoltatori, proprio per fare un pochino di chiarezza, è: voi avete utilizzato degli integratori? Non li avete mai utilizzati? Con quali risultati? Chi ve li ha consigliati? Brava, anche questo a me sarebbe oppure benissimo. Li avete utilizzati per voi o li avete utilizzati per i vostri figli? Perché poi c'è anche tutti i ragazzi che fanno sport, a cui gli allenatori, piuttosto che gli stessi genitori, consigliano degli integratori. Quindi vorremmo proprio che ci raccontaste il vostro rapporto con questi supplementi dietetici alimentari. Perché lo fate? Se siete contenti, se non lo siete, o se viceversa avete avuto esperienze anche negative per la salute o per il rendimento dei ragazzi. È un tema difficile, è un tema delicato. Abbiamo voluto affrontarlo perché secondo noi è meglio parlarne anche rischiando qualcosina che lasciarlo in un angolo, facendo sì che ciascuno nella sua palestra o nel suo spogliatoio se lo gestisca quasi di nascosto. Professore Giampietro, nella dieta seguita abitualmente, dico, dall'italiano medio, è possibile vi siano carenze di qualche minerale o di qualche vitamina, di qualche aminoacido che necessitano di essere integrate? Partiamo anche da qui. Ma intanto la dieta degli italiani sta cambiando purtroppo, non è più quella di una volta, quella che si ispirava al modello mediterraneo di alimentazione, sì, ricca di vegetali, ricca di frutta, di legumi, l'olio extravergine di oliva, eccetera. Se diciamo l'italiano non segue diete restrittive finalizzate in maniera più o meno congrua a perdere peso, e quindi se stiamo parlando di una dieta intorno alle 1800-2000 calorie, è probabile che carenze nutrizionali non ce ne siano. Anche con 1600 calorie può esserci un po' di difficoltà a coprire il fabbisogno di ferro per le donne in età fertile, ma a parte questo altre difficoltà non ce ne sono, purché però queste calorie vengano da una varietà sufficientemente ampia di alimenti, con la preferenza per gli alimenti di stagione e gli alimenti prodotti vicino al luogo dove uno risiede, cioè è quella politica dei cosiddetti alimenti a chilometro zero. Questo perché? Perché sono dei prodotti più maturi, raccolti quando, cioè, il prodotto, l'alimento è al massimo della sua potenzialità nutrizionale e contiene tutti i principi nutrizionali che noi consideriamo quel prodotto avere quando consultiamo le tabelle di composizione degli alimenti. Quindi è chiaro che prodotti di stagione dieta nel loro momento d'oro. Esatto, se uno mangia sempre pomodori tutto l'anno, solo banane, non che ce l'abbia con le banane, per carità, sono buone, ma non sono prodotte in Italia, vengono raccolte non mature per poter essere poi portate sui mercati con un aspetto assolutamente incontaminato, intonso, questo, è chiaro che certo, in questo caso qualche carenza ci può essere. Se non mangiamo i legumi, se non mangiamo il pesce, cioè quindi una dieta varia ed equilibrata che deve dare la preferenza a prodotti stagionali, meglio se vicini a casa nostra, localizzati. Soprattutto non abbiamo mai problemi di carenza di aminoacidi e di proteine, quello mai. Dottor Confaglionieri, invece focalizziamoci su chi fa sport a livello amatoriale o agonistico. Queste categorie di persone hanno necessità di integrare la dieta con alcuni prodotti specifici? Diciamo che qui bisogna fare un pochino di chiarezza. Comunque la tematica come affrontata dal professor Giampietro è affrontata in modo assolutamente corretto. Diciamo che potrebbero sorgere dei problemi specifici per qualche sostanza soltanto in persone che si allenano quotidianamente due ore e mezza, quindi parliamo di un impegno agonistico o comunque molto molto importante, e che non seguono uno schema dietetico adeguato. Per queste categorie di persone, in alcune fasi della stagione dell'allenamento, quindi parliamo di atleti da due ore e mezza almeno di impegno quotidiano e che non hanno uno schema dietetico sufficiente o adeguato, potrebbero nascere la necessità dell'utilizzo di qualche integratore. Però anche in questo caso l'approccio ad un'eventuale integrazione dovrebbe essere assolutamente individualizzato, quindi sulla base della tipologia dell'allenamento e della dieta seguita da ciascuno e gestito da uno specialista. Andiamo alle nostre domande, poi vi leggerò qualche messaggio. Brescia, ci chiama Giorgio da Brescia. Sì, buongiorno, mi chiamo Giorgio, 35 anni e pratico sport di palestra, diciamo tipo bodybuilding leggero, da circa una decina d'anni. Ultimamente ho ripreso da 2 mesi, dopo 7 mesi che mi ero fermato per dei problemi. Sì. In questi 7 mesi, dato che ho un fisico che tendo un po' a ingrassare, ho accumulato circa 10 kg grosso modo di grasso. Adesso da 2 mesi ho iniziato a fare una dieta, diciamo, proteica con uno specialista. Sì. E in questi 2 mesi ho già perso 4 kg, di cui le posso dire 3 kg di grasso. È una dieta molto mirata con degli integratori. Con degli integratori? Sì. Quali sono? Vitamina C, acido lipoico, la mattina 1 grammo, 1 grammo. E acido lipoico solo 1 grammo la sera, e aminoacidi 8 grammi prima dell'allenamento e 8 grammi dopo, con 30 grammi di proteina a parte. Prescritti, Giorgio, mi scusi, dal suo medico. Sì, da un medico dietologo molto specialista. Mi alleno dalle 2 alle 3 volte alla settimana. 2 o 3 volte alla settimana. Professor Giampietro. Ma io dico che quando ci si allena 2 o 3 volte a settimana si perde comunque abbastanza, anche a prescindere dagli integratori. Se la razione alimentare, se la dieta è una dieta ipocalorica, cioè con meno calorie rispetto al fabbisogno di energia, qualunque dieta di questo genere induce un dimagrimento. Sull'efficacia dell'acido lipoico e della vitamina C, mi pare che a questi prodotti facesse riferimento l'amico Giorgio, diciamo, non ci sono evidenze scientifiche e prove che dimostrino una qualche attinenza con il dimagrimento, proprio non ce ne sono minimamente. Probabilmente, diciamo, forse c'è una carenza di prodotti vegetali, che invece nelle diete, anche per dimagrire, qualunque se siano, sono prevalentemente abbondanti, perché si cerca di saziare la persona con abbondanti quantità di frutta e di verdura. Quindi, diciamo, non riesco a trovare un razionale di questa integrazione. Consiglierei forse a Giorgio di insomma, verificare un po' meglio quali possono essere le sue esigenze nutrizionali. Fra gli integratori dietetici maggiormente di moda ai nostri giorni, per tutta la popolazione, ma in modo particolare per gli sportivi, ci sono gli antiossidanti e gli omega 3. Cosa ci dice a proposito di queste sostanze, professore? Gli esperti nazionali, i veri esperti, ci hanno rassicurati. Gli antiossidanti sintetici, quindi le capsule, le compresse, non hanno efficacia. Quelli che hanno efficacia sono gli antiossidanti contenuti negli alimenti, purché consumati freschi, purché consumati con i dovuti tempi di cottura. A volte addirittura questi antiossidanti, e in alcuni casi anche gli acidi grassi omega 3, in soggetti sani che ne facciano un uso improprio, eccessivo, possono comportare dei problemi di salute, cioè agiscono addirittura come pro-ossidanti. Quindi io consiglierei grande cautela, perché ancora oggi le informazioni scientifiche che abbiamo sono, nella migliore delle ipotesi, contrastanti o ci dicono che non servono. In alcuni casi possono essere dannosi. Diverso è quando c'è una patologia in atto che possa richiedere, se opportunamente diagnosticata, anche l'utilizzo di queste sostanze, ma in questo caso non sono degli integratori, ma verranno utilizzati con prescrizione medica. E qua è tutta un'altra storia. Infatti, allora qua è tutta un'altra storia. Certo. Dottor Confalonieri, stiamo parlando di integratori e mi scusi, lei non mi è sembrato nemmeno così critico però rispetto all'utilizzo di questi prodotti, sì o no? Critico nel senso che dobbiamo andare a individuare eventuali situazioni particolari, individuali, in persone molto impegnate sul piano fisico, dove si può valutare l'eventuale utilizzo individualizzato di queste sostanze. Senta, ma esiste un confine tra l'integrazione e il doping? Ecco, questo è un punto fondamentale. Cioè, sono contento di questa domanda perché è fondamentale. Ecco, nel senso che ritengo sia doping non soltanto qualsiasi sostanza vietata, non soltanto qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa, ma anche qualsiasi sostanza assunta esclusivamente con lo scopo di migliorare la prestazione, indipendentemente dal fatto che non faccia male, che sia consentita. Questo è molto importante, è molto importante che lo capiscano tutti coloro che fanno sport e tutti i genitori di coloro che fanno sport. Dal mio punto di vista, e credo su questo sia d'accordo anche il professor Gianpietro, è già doping qualsiasi sostanza, fosse anche il più innocuo dei sali minerali, che noi assumiamo magari al mattino della gara con l'idea che attraverso questa sostanza miglioreremo la prestazione, perché sul piano etico e sul piano psicologico educhiamo l'atleta al concetto di doping. Giorgio ci chiama da Modena. Giorgio, buongiorno. Sintetico, buongiorno con la domanda. Grazie. Ecco, la domanda è una considerazione. Visto che io sono un genitore, ho una figlia che pratica basket e ha avuto dei problemi di peso che ha dovuto, grazie alla dietista, togliersi da questi problemi, questi chilogrammi di troppo. Sì. La risposta che è stata della dietista, che è stata molto corretta, è stata quella di ponderare quello che era il suo consumo calorico nella sua attività, quindi senza l'uso di integratori, di nessun tipo di sostanze che potessero essere considerate integratori o addirittura dopanti. Questo ha ottenuto dei risultati notevoli grazie sia al suo impegno, diciamo all'impegno che ha avuto lei, grazie alla società, anche che la società si è comportata benissimo, non utilizza niente questi ragazzi, non costringe a prendere niente questi ragazzi, e soprattutto quello che è stata la dietista che l'ha seguita in ogni attimo della sua fase. Quindi io direi che non sono tutti così da buttare, ma è chiaro che ci vuole capire ai ragazzi che la volontà per quello che riguarda tutte le cose, la perdere peso a tutte le altre cose che possono capitare nella vita, è quello che è la società che dice: se ti alleni ottieni, se no niente, è inutile che prendi integratori per fare chissà che cosa che poi alla fine ti fanno solo male. Grazie Giorgio, che è un'esperienza un po' da manuale, quella a cui aspiriamo tutti. Grazie Giorgio, andiamo da Gino, ci chiama da Milano. Gino, buongiorno. Buongiorno. Rapidamente alla domanda. Senta, io ho una ragazzina di 13 anni. Sì. Pratica sport agonistico, in particolare nuoto, si allena 2 ore tutti i giorni e volevo sapere se, visto l'età soprattutto, ha bisogno di qualche particolare accortezza alimentare o di integratori o quant'altro. Riconoscendo poi validità al discorso che faceva sul doping del medico che ha parlato precedentemente. Grazie Gino. Dottor Confalonieri, in linea di massima direi di no. Se si alimenta in modo corretto, l'unica attenzione potrebbe essere nel momento in cui avrà il menarca, se non l'ha già avuto, quindi ci saranno delle parete di ferro collegate con il ciclo mestruale, valutare se non ci possano essere delle carenze di ferro legate a un'alimentazione inadeguata, a un consumo di ferro con l'esercizio fisico e a una perdita legata al ciclo mestruale. Andiamo a Fernando che ci chiama da Varese. Fernando, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo chiedere agli esperti. Io da 3-4 anni pratico corsa, però per mancanza di tempo vado a correre solo la domenica, facendo circa 20 km di corsa. Sì. E io prima di uscire semplicemente faccio una colazione di latte con biscotti e quando rientro un bel tazzone di latte, perché ho sentito che è un buon sostituto di quegli integratori tipo Gatorade, eccetera eccetera. Volevo chiedere agli esperti se va bene così, e poi io sono portatore sano di anemia mediterranea, per quanto riguarda questo sforzo potrebbe incidere questo sul mio fisico? Grazie a lei Fernando. Professor Gianpietro. Allora, tranquillizziamo Fernando rispetto all'anemia mediterranea, può farla tranquillamente, controllare periodicamente le analisi per quanto riguarda il metabolismo del ferro, ma non ci sono sostanzialmente problemi. Mi dispiace per lui che possa correre solo la domenica, perché chiaramente non può dare continuità al lavoro fisico, anche se fa 20 chilometri, che è un bel impegno, e ne parlo con un minimo di consapevolezza perché io mi dedico alla corsa. Latte e biscotti prima di un impegno fisico, io forse più che latte utilizzerei lo yogurt, perché il latte può dare un po' più di problemi di digestione. Biscotti con miele, yogurt, frutta e forse dei cereali potrebbe essere una soluzione migliore. Il latte dopo la corsa può andar bene, ma non come sostituto dei prodotti commerciali che lui ha nominato, perché quelli hanno un'altra composizione, ma perché il latte è una buona, eccellente bevanda, contiene una minima quota di zuccheri e di proteine, quindi può andar bene. Però dopo una bella corsa di 20 chilometri forse merita anche qualcosina in più, Fernando, e quindi gli possiamo concedere anche, insieme al bicchiere di latte, una fetta di crostata o di un ciambellone ben fatto in casa. Allora, grazie professor Gianpietro per essere stato con noi, grazie al dottor Franco Confalonieri e buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi, a risentirci. Grazie, ci sentiamo presto. Ci sono delle parole che in questi ultimi anni si sono aggiunte al nostro vocabolario quotidiano. Se mi permettete, possiamo dire che sono diventate un po' di moda. Le infiliamo volentieri e con disinvoltura nei nostri discorsi, a volte azzardando anche dei legami tra loro: invecchiamento, stress ossidativo, sistema immunitario, radicali liberi, malattie neurodegenerative. Allora oggi proviamo a metterli insieme in un discorso logico, ma soprattutto scientifico. Ci accompagna il professor Luc Montagnier, Nobel per la medicina del 2008, che è venuto a trovarci nei nostri studi in occasione di un congresso che si è svolto a Milano nei giorni scorsi. Professor Montagnier, la sfida congiunta della ricerca e anche della medicina è riuscire non solo ad aggiungere anni alla vita, ma soprattutto vita agli anni. Secondo lei, professore, stiamo centrando l'obiettivo? No, je crois c'est d'abord faut bien réaliser que c'est quello di cui stiamo parlando è un argomento veramente importante. Perché è risaputo che la gente vive molto più a lungo. Però, vivendo più a lungo, c'è stata una proliferazione di numerose patologie, ad esempio malattie croniche, del cuore, articolari e del cervello. È vitale, dunque, per noi vivere meglio, anche a livello sociale, perché vivendo più a lungo, i costi sociali della nostra vita sono aumentati. Tante volte, professor Montagnier, noi abbiamo paragonato la vita ad una candela accesa che bruciando si consuma. Spesso questo paragone è stato usato per spiegare lo stress ossidativo, un termine che ormai è diventato a noi familiare e con cui generalmente spieghiamo sia gli acciacchi dell'età che le malattie cronico-degenerative. Allora, approfitto di lei per fare un po' di chiarezza e anche le dovute precisazioni. Se lei è d'accordo, inizierei proprio dall'ABC. Che cos'è lo stress ossidativo? Come possiamo definirlo? Lo stress ossidativo è un disequilibrio. Lo stress ossidativo è uno squilibrio tra le molecole che sono derivate dall'ossigeno e le nostre difese. Lei ha parlato di questo confronto con la candela che brucia e si consuma sempre di più. Io invece parlerei di un motore di un'auto che è molto, molto usato e che inquina sempre di più man mano che lo si usa. Nei nostri muscoli ci sono delle serie di cellule, i mitocondri, che invecchiano molto più velocemente del resto dell'organismo, che producono queste molecole particolarmente inquinanti, che sono queste cellule derivate dall'ossigeno. Con gli antiossidanti possiamo cercare di correggere un pochino questa disfunzione dei mitocondri. Ma ci sono anche una serie di fattori esterni che hanno un ruolo in questo inquinamento e sono l'inquinamento chimico, alimentare, atmosferico e anche le infezioni che peggiorano lo stress ossidativo, ed è proprio su questi fattori che possiamo agire. Tutte le infezioni producono un stress ossidativo e quindi su questi fattori noi possiamo agire. Professor Montagnier, ma allora, come possiamo capire qual è il nostro livello di stress? Allora, on doit mesurer ceci par des tests de laboratoire qui existent. È possibile misurarlo con dei test specifici di laboratorio che da un lato sono molto precisi, ma dall'altro anche molto costosi. Lo stesso campione di sangue deve essere sottoposto a una ventina di misurazioni presso un laboratorio specializzato. Professor Montagnier, abbiamo visto che ci sono delle condizioni che aggravano lo stress ossidativo, ma ci sono anche dei soggetti, mi passa il termine, più esposti, più vulnerabili? Alors, c'est effectivement des conditions de maladie. Certo, ci sono delle condizioni che aggravano lo stress ossidativo, come ad esempio le condizioni di malattia, perché tutti quando invecchiamo abbiamo un certo livello di stress ossidativo. Ma malattie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer o il cancro chiaramente peggiorano queste condizioni. Ma può anche accadere che una persona giovane, in buona salute, possa avere una situazione di stress ossidativo molto importante in seguito a un esercizio fisico eccessivo, perché il funzionamento dei muscoli, quando sono troppo affaticati, genera un peggioramento dello stress ossidativo. Per questo uno sportivo di alto livello deve riposarsi dopo uno sforzo e deve assumere dei prodotti antiossidanti per combattere lo stress ossidativo. Après son effort et prendre des antioxydants après l'effort. Quali sono, professore, allora i prodotti antiossidanti che possono aiutarci a difenderci o a rallentare la corsa dello stress ossidativo? Alors, ce sont en général des produits naturels. Si tratta soprattutto di prodotti naturali come vitamina C, vitamina E, ma esistono anche una serie di prodotti ottenuti da estratti delle piante che servono per lottare contro lo stress ossidativo, perché proprio le piante lo hanno prodotto per difendersi dall'inquinamento ambientale. Professore, lei ha fatto degli studi magnifici sulla papaya. Ci racconta? Io ho fatto degli studi sulla papaya fermentata perché la fermentazione migliora la qualità del prodotto. Grazie infatti alla fermentazione acquista tutta una serie di proprietà che la papaya da sola, come frutto unico, non ha. Effettivamente l'estratto di papaya fermentato contiene nuove molecole di zucchero che sono al tempo stesso antinfiammatorie e immunostimolanti. E antinfiammatoire. Professor Montagnier, ma oltre alla papaya, ci sono delle altre piante che possono aiutarci a contrastare l'effetto dello stress ossidativo? Allora, sono stati fatti una serie di studi di laboratorio che hanno permesso di capire che c'è una serie di altri prodotti che aumentano la protezione grazie all'aumento della produzione di enzimi. E sono studi che sono stati fatti sugli animali, che hanno permesso di dover evitare un confronto con gli studi placebo. Professor Montagnier, ma lei vorrebbe vivere fino a 100 anni? Sono sicuro, e questo lo dimostrano le statistiche, che nel 2050 non solo in Francia o in Italia, ma in tutto il mondo, il numero di centenari sarà veramente altissimo. Quello che io dico è che sì, voglio vivere fino a 100 anni, ma a condizione di stare bene. Professor Montagnier, la ricerca sta lavorando e i risultati sono in alcuni campi sorprendenti. Molti studi però sono ancora in corso, tante sfide sono ancora da vincere, insomma l'officina della scienza è al lavoro. Ma lei su che cosa punta? Il futuro è qui, alle porte. Che cosa vede? Che cosa si augura? C'est quelque chose de très très complexe qui va prendre pas mal d'années, mais ci vorrà molto tempo perché si tratta di un cambiamento culturale. Quello che vorrei è una medicina preventiva. Purtroppo molte delle malattie di cui abbiamo parlato dopo una certa fase sono incurabili, per cui se noi le prevenissimo sicuramente la situazione sarebbe migliore. Insomma, non è mai troppo tardi allora, professore, per fare prevenzione. Lei lo insegna? Bisogna avere molta cura del proprio corpo, in modo particolare dai 40 ai 45 anni, perché è proprio a questa età che si inizia a manifestare lo stress ossidativo. Ringrazio davvero il professor Montagnier che ci ha preso per mano e ci ha guidato attraverso concetti non sempre facili da capire. Chiudiamo con le mamme in attesa. In linea con noi abbiamo la professoressa Irene Cettin, primario del reparto di ginecologia dell'ospedale Sacco Università di Milano. Professoressa, bentornata. Buongiorno. Professoressa, quando una donna entra in gravidanza ha sempre un po' il problema del peso. Si dice non devi aumentare tanto, 9-11 kg. Ma è vero questa cosa oppure ci sono delle la cosa dipende un po' dal peso di partenza? Assolutamente vero quello che ha appena detto, nel senso che il peso di partenza, o ancora meglio quello che viene chiamato indice di massa corporea, cioè il body mass index, rapporto tra peso e altezza, ci dicono se una donna prima di tutto è già a maggior rischio fin dall'inizio della gravidanza o meno. In una donna che parte normo peso, l'aumento complessivo di peso oscilla in una gravidanza normale tra i 7-8 kg fino ai 14-15. Sì. E questo si raggiunge però non mangiando di più, cioè sostanzialmente se una donna ha già una dieta equilibrata all'inizio della gravidanza deve continuare a mangiare così. Si può mangiare quindi di tutto in gravidanza o ci sono degli alimenti che vanno in qualche modo eliminati? Mi riferisco a salumi, alimenti crudi, il pesce crudo che adesso va molto di moda, la carne cruda. Professoressa. Certo, ma allora dipende prima di tutto dalla positività o meno che una donna ha già alla toxoplasmosi, quindi se una donna non ha mai avuto la toxoplasmosi ha una serie di limitazioni maggiori che sono non mangiare la carne cruda ma neanche gli affettati crudi, non mangiare frutta o verdura cruda se non lavate molto accuratamente. A parte questa situazione, che peraltro è molto frequente in Italia, le limitazioni sono un po' di buon senso, nel senso che bisogna evitare magari cibi in cui, non so, il pesce crudo è un discorso chiaramente di qualità più che altro, cioè si può mangiare il pesce crudo, però bisogna essere sicuri che sia, che non sia, che non abbia un rischio di trasmettere epatite, cose di infezioni. Sostanzialmente lo stesso vale per le creme che contengono uova fresche, quindi se si è in un clima molto caldo bisogna stare un po' più attenti. E poi bisogna bere molto, bisogna aumentare l'introito di liquidi, quindi bere almeno 1,5-2 litri di acqua e liquidi al giorno e equilibrare bene gli alimenti anche e soprattutto nel corso della giornata, cioè bisogna magari ridurre un pochino ai pasti principali, non saltare assolutamente i pasti e fare dei piccoli spuntini intermedi a metà mattina, a metà pomeriggio e anche magari... Per tirare un po' la giornata e non arrivare alla sera affamatissimi. Esatto. Professoressa, invece c'è una cosa che va assolutamente eliminata, è l'alcol. Sì, in gravidanza, assolutamente, quindi sì. Neanche sotto forma, uno dice poco alcolico e bevande mezze no, l'alcol non si prende, è tassativo. Ci sono molti studi che dimostrano che ci possono essere delle alterazioni proprio di tipo morfologico dello sviluppo del cervello del bambino, e pure il fumo, ovviamente il fumo assolutamente non deve essere, deve essere proprio sospeso in gravidanza, anche nell'allattamento è stato visto che riduce il peso alla nascita del bambino, ha tutta una serie di effetti negativi. Quindi bacco e tabacco non sono amici della mamma, no, in attesa. No, professoressa Cettin, la dieta quindi varia ed equilibrata se non ci sono delle condizioni particolari, naturalmente con buon senso, eliminare l'alcol, eliminare il fumo, assumere però l'acido folico. E questo abbiamo visto che ci sono delle evidenze e una raccomandazione alle mamme in attesa, ma ancora prima alle donne che pensano, sperano di avere un bambino, è vero? È fondamentale veramente, tutte le donne che sono in età fertile, che anche sono magari ci stanno anche solo pensando alla gravidanza, dovrebbero prendere l'acido folico, perché è stato proprio visto prima di tutto che noi tutti siamo carenti di acido folico, partiamo da questa premessa, perché sì, sennò basterebbe assumerlo con gli alimenti, però siamo tutti carenti di acido folico contenuto soprattutto nelle verdure verdi a foglia larga, però non ne assumiamo in quantità sufficiente. Sì. Quindi il fatto è che se si è carenti aumenta il rischio di malformazioni del sistema nervoso centrale del bambino. Quindi quello che si è visto è che per riportare però i livelli ad una quantità sufficiente per prevenire queste malformazioni bisogna iniziare la supplementazione prima del concepimento, quindi almeno un paio di mesi prima. Senta, e se invece io non, il bambino arriva, una donna scopre di essere in gravidanza e quindi senza, questo bambino non era atteso ma sicuramente benvenuto, c'è ancora il tempo oppure l'acido folico non funziona? È sempre meglio iniziarlo, perché comunque l'acido folico è una vitamina che serve in diversi processi di riproduzione cellulare, quindi poi gli organi si continuano a formare e serve anche per la formazione dei globuli rossi materni. Quindi è comunque utile, però diciamo che tutte le volte che il ginecologo dovrebbe assolutamente consigliarlo, e le donne stesse, se cercano se sanno che non stanno dando anticoncezionali, potrebbe capitare, ecco, sarebbe meglio che lo prendesse. Mi sembra che questa sia una buona raccomandazione. Professoressa, io volevo chiederle qualcosa sul ferro. Molte donne in gravidanza si sentono consigliare dal ginecologo di un'integrazione con il ferro. È sempre necessario? È così frequente il bisogno di ferro in gravidanza? Che cosa succede? In gravidanza gravidanza il fabbisogno di ferro aumenta perché aumenta molto la produzione da parte del midollo della mamma dei globuli rossi e quindi la mamma usa le sue riserve. Quindi a un certo punto dipende un po' dalle riserve di partenza, però quello che succede, noi tutti i mesi controlliamo i valori dell'emocromo che ci dice, cioè, quanti globuli rossi, quanti globuli bianchi, quante piastrine, eccetera. Se i globuli rossi e l'emoglobina cominciano a diminuire, che è fisiologico in gravidanza, perché c'è proprio una situazione per cui aumenta molto il volume plasmatico, c'è cioè una diluizione del sangue, però quando si arriva a valori sotto a 11 o a 10 grammi decilitro bisogna assolutamente supplementare con ferro, perché questa cosa poi prosegue ancora nel corso della gravidanza e poi durante l'allattamento, quindi se no la donna si troverebbe veramente troppo carente e l'anemia in gravidanza è molto frequente. Professoressa Cettin, se lei dovesse dare, naturalmente da medico e anche magari da donna, un consiglio ad una nostra ascoltatrice che sta affrontando la gravidanza, i primi mesi di gravidanza, quali raccomandazioni si sentirebbe di dare? Bisogna avere fare una vita sana, una vita regolata, seguire tutte le norme che vengono scritte anche per la prevenzione, per dire, dell'infarto, stessa cosa, cioè fare una vita regolare, mangiare regolarmente, non saltare i pasti, dormire abbastanza, fare anche un pochino di attività fisica, stare attenta a non mangiare gli alimenti che abbiamo detto, cercare di mangiare verdure, anche il pesce è molto importante perché è stato visto che aiuta proprio la maturazione del cervello del bambino e migliora in generale gli esiti della gravidanza. Quindi stare attenti a fare quello che chiunque dovrebbe fare, ma che in gravidanza è più importante: non bere, come abbiamo detto, non fumare, però cercare di stare bene, cioè si può fare una vita abbastanza, anzi, una vita normalissima. Una vita normalissima e poi anche al di là magari dei piccoli disturbi che possono manifestarsi nei primi mesi, come la nausea, un po' di stanchezza, godersi questo periodo che per ogni donna rimane un periodo indimenticabile. Professoressa Cettini, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata, la lascio alle sue mamme, future mamme. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Arrivederci. E prima di salutarvi parliamo di un altro importante risultato raggiunto dalla ricerca italiana. Per i pazienti colpiti da ictus è in arrivo un test, pensate, che è in grado di predire le possibilità di recupero motorio. Ne parliamo oggi con il coordinatore dello studio, il professor Vincenzo Di Lazzaro, professore associato di neurologia Stroke Unit al Policlinico Gemelli, Università Cattolica di Roma. Professor Di Lazzaro, benvenuto, buongiorno. Sì, buongiorno. Il test che noi abbiamo introdotto è in grado di valutare le potenzialità del cervello, cioè la plasticità, nei primi giorni dopo un ictus e quindi di prevedere la possibilità di recupero. Si tratta di un test indolore non invasivo che viene effettuato valutando la risposta del cervello a stimoli esterni. Professor Di Lazzaro, ma deve essere fatto a tutti? No, non è indicato fare a tutti i pazienti questo test. Questo test deve essere eseguito in centri specializzati e su gruppi selezionati di pazienti al fine di vedere gli effetti di terapie che noi abbiamo, sia farmaci che riabilitazione, sulla plasticità cerebrale e quindi arrivare a individuare quelle terapie che possono essere particolarmente efficaci nel promuovere il recupero. Questo potrebbe essere utile ove fossero disponibili nuovi interventi terapeutici. E le stesse tecniche di stimolazione cerebrale in futuro potrebbero diventare una strategia terapeutica, ecco, perché si misura la risposta del singolo paziente in fase acuta e quindi possiamo in qualche modo calibrare l'intervento sul singolo paziente, ma ancora utilizzando la stimolazione cerebrale la speranza è che possiamo proprio guidare la plasticità, potenziarla al massimo e quindi esprimere al massimo il potenziale di recupero del cervello. Professor Di Lazzaro, la saluto, la ringrazio soprattutto per la sua chiarezza e le auguro buonissima giornata. Grazie, buona giornata. E per questa puntata è tutto, vi ringrazio per essere stato con noi, appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo e lunedì sempre con la salute dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.